ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, i mesi e le settimane che abbiamo trascorso hanno riproposto intensamente all'attenzione di tutti noi i temi del progresso, dell'innovazione scientifica, della ricerca, e allora è utile un libro che vi propongo questa sera che affronta proprio questo tema. È un libro che era già pronto per essere pubblicato prima che scoppiasse la pandemia, il cui diffondersi ha poi indotto l'autore a un'ulteriore riflessione che fa un po' da conclusione a questo libro. L'autore è un noto storico, Aldo Schiavone, autore appunto di Progresso, pubblicato dal Mulino, 150 pagine, 12 euro. Per Schiavone, quello che caratterizza la nostra epoca, è una sorta di disillusione che ormai agli occhi di molti si accompagna all'idea stessa di progresso, che sembra aver perso gran parte di quella carica palingenetica alla quale per tanti secoli si era accompagnata. Ma il progresso è fatale, aggiunge Schiavone, una freccia che una volta scoccata è praticamente impossibile fermare e che fa parte irrinunciabile dell'evoluzione umana. Naturalmente nel corso dei secoli, ci spiegano, sono mancate voci prudenti se non pessimiste sulle sorti future dell'umanità, basti pensare a Leopardi o a Nietzsche, ma insomma il ciclo sembrava obbligato. Nel Novecento, come scrive Schiavone, era successo un qualcosa di inedito nella storia dell'umanità, e cioè che le invenzioni e le scoperte non erano più eventi distanti e isolati, ma il fluire continuo di un unico entusiasmante processo. Dalla tecnica nasceva altra tecnica, in un succedersi ininterrotto che condizionava la produzione e il mercato. Poi la crisi di oggi, dovuta a un fenomeno traumatico che per alcuni potrebbe essere la perdita di controllo del progresso, o, per dirla con Schiavone, la dirompente dissociazione tra la velocità dell'avanzamento della tecnica da un lato e la fatica o l'incapacità del resto della storia umana nell'adeguarvisi in modo positivo dall'altro. E allora sentiamo su questo l'autore. Buonasera, Aldo Schiavone. Buonasera, buonasera. Aldo Schiavone, lei nel suo libro ci spiega dunque che siamo di fronte alla crisi di un'idea, quella del progresso, alla quale invece eravamo molto affezionati. Che cos'è successo? Perché è entrata in crisi questa idea del progresso che era stata la molla dello sviluppo per tanti secoli? Perché dunque è stata la molla ed è stata, come dire, l'ideologia che ha accompagnato lo sviluppo in un modo, come dire, molto forte e intenso, diciamo, 700 e i primi del 900. Dunque sì, era l'idea incontrastata, era, come dire, l'ideologia dell'Occidente. Il 900 ha messo in crisi questo rapporto così stretto, perché il 900 è stato di tutto il pianeta, non solo in Occidente, un secolo terribile, un secolo di, basta pensare alle due guerre mondiali, ma non solo, devastazioni inaudite, spaventose crisi economiche, quella del 29, quella del 2008, le due guerre mondiali, un secolo di grandi rotture e di grandi lacerazioni. Queste rotture, queste lacerazioni hanno messo in crisi l'idea, come dire, lineare del progresso, cioè l'idea che ci fosse una crescita esponenziale ormai indisturbata e tranquilla, tutta la storia andasse come dire, immediatamente, linearmente verso futuri sempre migliori, sempre migliori, sempre migliori. Ha introdotto, cioè ha reintrodotto nella storia l'idea della discontinuità, dello spezzarsi e del dramma. Ecco, questo non toglie però che noi oggi non possiamo riprendere e continuare a, come dire, a lavorare con un'idea di progresso, ma un'idea di progresso, diciamo, molto meno ingenua e ingenuamente ottimistica di quella che ci ha accompagnato tra metà Settecento e primi del Novecento, come dicevo. E lo scopo del libro è proprio questo, quello di mostrare come oggi noi possiamo continuare a servirci dell'idea di progresso per spiegare cosa siamo, chi siamo e qual è il nostro posto, il nostro, dico, degli umani, della specie umana sulla terra e nel mondo, ma usando un'idea di progresso, un concetto di progresso molto meno ingenuo e lineare. Ecco, fra le ragioni della crisi che lei già ci ha accennato, c'è anche la caduta del comunismo che ha suscitato, determinato la vittoria di un capitalismo che per alcuni decenni è sembrato inarrestabile, e però c'è anche un elemento molto importante che lei cita a un certo punto, e cioè la manipolazione della natura, che ha determinato anche qua una grande insicurezza da parte dei cittadini, da parte della gente comune, che vedevano questa frontiera, quella che lei chiama la frontiera che divide il mondo naturale dalla cultura, farsi sempre più incrinata. Questo rapporto con la natura quanto ha inciso nella idea della crisi del progresso? Ha ragione, tocca un punto molto importante, ha inciso moltissimo e ci ha riempito di preoccupazioni, perché noi abbiamo verificato che questo controllo sempre maggiore che noi acquisiamo della natura, fino al punto che ormai è quasi più indistinguibile il naturale dall'artificiale, e questo controllo sempre maggiore che noi acquisiamo della natura ci dà potenza, aumenta a dismisura la nostra potenza, ma questa potenza può essere usata anche per il male, può essere usata anche per creare problemi di equilibrio tra noi e l'ambiente, tra noi e l'ecosistema nel quale siamo raccolti, nel quale siamo, viviamo, nel quale siamo accolti, e che possono creare dei rischi terribili. Allora ecco, l'idea del rischio, l'idea che più si va avanti, più la nostra potenza aumenta, più aumentano i rischi nell'uso che noi possiamo fare di questa potenza, questo è un dato reale di cui dobbiamo tener conto, ma non tener conto per arretrare in questo cammino. Ecco, io credo che questa spinta verso un controllo sempre maggiore della realtà naturale dentro e fuori di noi sia ormai inevitabile e sia il nostro destino, il destino dell'umano. Credo però che il problema sia quello non di limitarci in questo accumulo di potenza, ma nel saperla usare nel suo buon uso, e quindi abbiamo bisogno di una politica, di un'etica, di un diritto, di istituzioni che siano in grado di governare per il meglio questa smisurata potenza che abbiamo acquisito e che acquisiremo sempre di più nei prossimi decenni. Quindi però il problema non è di avere meno tecnica, ma quello di avere più controllo politico, più politica, più etica, più diritto. Infatti lei nella parte propositiva finale indica due armi perché questa ripresa della fiducia nella freccia del progresso possa verificarsi, cioè l'arma del pensiero e l'arma di una nuova democrazia. Ecco, a quest'ultimo proposito, la politica, la democrazia, che cosa possono fare? Possono fare moltissimo, perché la politica una buona, come non abbiamo più ormai quasi dovunque in Occidente, non soltanto in Italia, una buona politica e quindi una democrazia forte e sana, possono, come dire, mettere sotto controllo dell'opinione pubblica e quindi sotto controllo democratico dei popoli questa potenza che noi acquisiamo, e non, come dire, piegarla agli interessi di gruppi ristretti transnazionali. Quindi il problema, ripeto, è quello di come possiamo dire, di governance, ecco, di governance, ma di una governance che sia ormai globale, di una governance globalizzata. E il punto è questo, io credo, alla fine di tutto, che se noi abbiamo ormai una governance globale dei processi di distribuzione delle merci, non vedo perché non dobbiamo avere una governance globale anche della politica. Questo è il punto cruciale. Tutto si va a restringere, si va a chiudere. Che noi oggi abbiamo un governo mondiale della finanza e delle merci, sottratto ai poteri democratici, e invece una politica che ancora balbetta dentro i confini nazionali, che ancora non riesce mai ad affrontare in modo forte l'opacità di questi grandi poteri e di questi accumuli smisurati di potenza e di ricchezza e di tecnica. Lei ha fatto in tempo ad aggiungere una postfazione sul Covid. Che cosa ci insegna l'esperienza del Covid alla luce delle sue riflessioni sul progresso? Ci insegna che noi dobbiamo guardare in modo positivo alla scienza e dobbiamo avere un rapporto migliore e più importante e di massa con la scienza, e che noi siamo perduti, noi sempre l'umano, dico la specie umana, è perduta senza la scienza. Questa è stata la prima epidemia che ha sperimentato la specie umana, ahimè, ma è stata la prima epidemia come dire, in cui si è cercato una medicalizzazione mondiale, in cui si è cercato, a cui si è cercato di rispondere con una medicalizzazione mondiale. Ecco, questo è un fatto molto importante e molto positivo. Una medicalizzazione mondiale ancora molto incerta, molto balbettante, con molti punti opachi, non sappiamo se la Cina ha detto tutto, se le cifre che dall'India sono quelle giuste e così via. Però c'è stato un tentativo di risposta globale, questo è un fenomeno enormemente importante. 100 anni fa, quando c'è stata l'epidemia della spagnola, siamo stati molto lontani da una risposta simile e infatti abbiamo avuto un numero di morti spaventosamente più alto e questo è un grande passo avanti verso, come dire, processi che io chiamo di medicalizzazione globale nei quali c'è il nostro futuro. Grazie ad Aldo Schiavone, autore di Progresso. Buona serata. Buonasera a lei, grazie. Ci invita a riprendere fiducia nel futuro il libro di un giornalista economico inglese, Paul Mason, che si intitola Il futuro migliore in difesa dell'essere umano, manifesto per un ottimismo radicale, pubblicato dal Saggiatore, 410 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Fabio Galimberti e Gaia Seller. Il libro affronta in particolare un aspetto che suscita molta agitazione, quello del rapporto con le macchine, ora che queste sembra siano addirittura o stiano per diventare capaci di mettersi a pensare autonomamente. Ma questo problema si colloca all'interno di una crisi planetaria fatta di arretramenti del liberismo e di affermazione di un micidiale mix che l'autore descrive così: un'alleanza di nazionalisti etnici, individui misogini e leader politici autoritari che sta facendo a pezzi l'ordine mondiale. E queste figure sono accomunate dal disprezzo per i diritti umani universali e per la paura della libertà. Per reagire a tutto ciò, dice Mason, abbiamo bisogno di una difesa radicale dell'essere umano, e di cui nel libro tratteggia la strategia, che si sviluppa anche da un'offensiva contro gli antiumanisti, coloro addirittura che sono convinti che se le macchine possono fare tutto il lavoro fisico, le specie esistenti non hanno più alcun senso. Insomma, Mason richiama a una militanza capace di smascherare i rischi che oggi corriamo, in una militanza che addirittura chiama antifascista, capace di far evolvere l'individualismo reticolare nel quale siamo immersi in un progetto di emancipazione comune. E a questo punto ci interrompiamo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Cambiamo genere, parliamo di un tema sempre molto controverso, quello dell'arte contemporanea, e vi segnalo un'ottima guida, quella di Tony Godfrey, che è un esperto di arte contemporanea, consulente di case d'asta, editorialista, che ha pubblicato con Einaudi L'arte contemporanea, un panorama globale, 280 pagine, ricchissime di illustrazioni, 40 euro, tradotto da Chiara Stangalino. Importante il sottotitolo di questo libro, Un panorama globale, perché Godfrey, inglese d'origine e ormai residente a Manila, è un particolare esperto di arte del sud-est asiatico, e in effetti qua ci fa conoscere tendenze artisti di tutto il mondo, oltre ai mostri sacri che naturalmente spopolano nelle aste. La frattura nella storia dell'arte contemporanea avviene per l'autore negli anni Ottanta, quando cambia completamente il modo in cui l'arte veniva realizzata, esposta e collezionata. E allora l'autore vuole raccontare appunto l'arte contemporanea come deve essere raccontata, e cioè come una serie di crisi spesso turbolente, conflitti e discussioni su che cosa sia e che cosa debba essere l'arte e la società, senza trascurare che una delle cose che rende così entusiasmante l'arte contemporanea, spiega l'autore, è che spesso essa riguarda i temi scontanti del nostro tempo: l'identità, il disastro ambientale e la vita virtuale. Su questo l'autore insiste anche alla fine, parlando degli anni a noi più vicini, quando cita alcuni artisti esemplari perché convinti, come Ding Zhi, come Baselitz, Rauch e altri, che l'arte riguarda la propria coscienza e la creatività individuale, la libertà e l'autenticità. Eppure, si chiedono questi autori, è finita l'era dell'artista individuale? Alcuni pensano di sì. Godfrey, nella sua dettagliata e spigliata presentazione, non elude l'interrogativo che molti osservatori si pongono sulla natura stessa dell'arte contemporanea. Anzi, parte proprio dalla classica domanda che spesso ci angoscia: se una cosiddetta opera d'arte sia davvero arte. Ma in fondo, dice Godfrey, non molto è cambiato dalle domande che si poneva l'autore della più importante storia dell'arte mai pubblicata, Ernst Gombrich, perché l'arte è spesso novità, e qui Gombrich citava Caravaggio. L'arte, aggiungeva, è una storia dell'espressività, e qui citava Picasso. Sono domande che continuano a dominare. Per quanto sia prezioso l'oggetto, il dipinto e l'installazione, è l'esperienza di osservarlo e rifletterci su che davvero conta, spiega l'autore. E il libro ci invita appunto a immergerci in questa esperienza da tanti punti di vista, anche inattesi, sorprendenti e spesso spiazzanti. Uno degli artisti che segnano l'ingresso nell'età moderna è certamente Vincent van Gogh, sul quale esce un libro interessante di Mariella Guzzoni, ricercatrice e curatrice, I libri di Vincent van Gogh e gli scritti che lo hanno ispirato. È pubblicato da Giovanni Levi, 232 pagine, illustrate, 28 euro. Van Gogh scrisse di avere, ci ricorda l'autrice, una passione più o meno irresistibile per i libri, per il bisogno, scriveva, di istruirmi continuamente, di studiare. Aggiunge anzi l'autrice che se c'è un elemento unificatore nella complessa esistenza di Van Gogh, questo è senza dubbio il libro. Il suo amore per la lettura corre lungo tutta la sua vita, con obiettivi diversi, mercante d'arte, predicatore, pittore, ma sempre e comunque con il gran desiderio di imparare, capire, ragionare, confrontare, servire la gente, trovare il modo di essere utile all'umanità. Il bagaglio artistico-culturale dei primi 10 anni, aggiunge l'autrice, pone le basi per la carriera dell'artista che sarebbe diventato. I libri e lo studio saranno il principale motore della sua trasformazione da predicatore a pittore. La pittura innanzitutto fu soggetto pittorico, da un giovanile acquarello del 1881, Uomo che legge accanto al fuoco. Molti altri lettori e libri troveremo nelle opere successive, e delle sue letture Van Gogh parla molto anche nelle sue corrispondenze. Gli autori preferiti erano Dickens, Zola, Hugo, Michelet, Loti, e il libro ci dà il quadro e la cronologia di questa passione di cui, ripeto, troviamo molta testimonianza nelle sue opere, che spesso raffigurano libri dal titolo ben in vista, come questi di cui ci parla Guzzoni in queste righe. Germiny Lazarteux narra la storia della sordida e doppia vita di una domestica di nome Germiny, ispirata a un caso vero e basata su una rigorosa documentazione. Nella prefazione, i fratelli Goncourt prefigurano quello che più tardi verrà chiamato naturalismo. Questo romanzo, che affonda lo sguardo nel cuore e nelle miserie degli strati più umili, è uno dei preferiti di Vincent perché riflette la verità così com'è. Quanto a Bellamy di Maupassant, è invece la storia dell'ascesa sociale di un giovane ambizioso e senza scrupoli che, grazie al suo successo con le donne dell'alta società, conquista una posizione politica di primo piano nella vita parigina. Da Arles, Vincent scriverà al fratello Theo scherzando su quanto gli è difficile convincere le donne provenzali a posare per lui. «Non mi sento abbastanza un signor Bellamy per questo». Queste due storie, fondate l'una su un personaggio femminile e l'altra su uno maschile, sono riunite in una tela molto colorata come autentiche descrizioni di una nuova epoca. Maupassant e i fratelli Goncourt, come Zola, Flaubert, Richepin, Daudet e Huysmans, sono elencati in una lettera a Willemin come quegli autori la cui opera è magnifica. Infatti, come afferma nella stessa lettera della fine dell'ottobre del 1887, non si può pensare di appartenere alla nostra epoca se non si conoscono. Si parla molto di arte, storia dell'arte e critica d'arte nel libro che viene ripubblicato in versione aggiornata di Cesare De Seta, storico dell'arte e dell'architettura, sulle strade delle lettere e delle arti, pubblicato da Neri Pozza, 452 pagine, e raccoglie molti interventi scritti su giornali e riviste pubblicati fino al 2013. Vi incontreremo tra gli altri alcuni tra i maggiori storici dell'arte, tra cui Berenson, Sciama e poi gli italiani Venturi, Pras, Brandi, Ragghianti, Arcangeli, Argan, Ginzburg, Testori, fino a figure noi contemporanee come Camilleri e Calasso. Non può mancare Roberto Longhi, scomparso 50 anni fa, nel quale De Seta mette in rilievo le grandi doti di critico e di storico. Longhi, tra l'altro, fu un grande collezionista, oltre che studioso dell'arte, in particolare del Seicento e dell'arte caravaggesca, sulla quale costruì un'importante raccolta i cui capolavori sono esposti in questo periodo nella mostra Il Tempo di Caravaggio, capolavori della collezione di Roberto Longhi, curata da Maria Cristina Bandera, in corso a Roma ai Palazzi Capitolini fino al 10 gennaio con il catalogo di Marsilio. E a proposito di Seicento, De Seta, in uno scritto su un altro studioso che ci ha lasciato pochi mesi fa, Marc Fumaroli, richiama i tratti caratteristici che aveva messo in luce appunto lo studioso francese dell'arte barocca, e ve le propongo in queste righe. La forza di Fumaroli è la forza della persuasione, propria all'eloquenza dotta di quel tempo. L'eloquenza è l'arte del grande secolo. Essa non è un ricordo, una memoria archeologica, ma un modo, come scrive Marino, o un metodo, diremmo oggi, per affermare che l'occhio ascolta. Poussin e Guido Reni sono i campioni di questo sentimento. Roma, Bologna, Parigi, le terre elettive di un Parnaso itinerante che vede sulla scena i Carracci e il Caravaggio. La frizione tra questi universi dissonanti rende ancora più chiara la vocazione di Fumaroli ad ascoltare la voce del silenzio. E a questo punto... Il confettino. Parliamo ancora di arte con Emoziarte di Martina Fuga, emozione a cura di Simona Colpani, illustrazioni di Sabrina Ferrero, pubblicato da Salani. Martina Fuga ha scelto 21 capolavori della storia dell'arte per descrivere e proporre appunto con Simona Colpani le emozioni che queste opere possono proporre ai giovani lettori. A questi dunque si chiede un'anima creativa, uno sguardo curioso, un pizzico di coraggio per intraprendere un viaggio fatto non solo di lettura ma anche di giochi e di attività. E oggi abbiamo celebrato un anniversario importante nella nostra storia, il 150° anniversario della breccia di Porta Pia, della presa di Roma da parte del Regno d'Italia, che avrebbe poi portato alla proclamazione di Roma capitale d'Italia il 3 febbraio dell'anno successivo, il 1871. In questa occasione escono alcuni libri e il primo che vi segnalo è quello di uno storico militare francese, studioso in particolare di Garibaldi, Hubert Hérier, autore della Breccia di Porta Pia, pubblicata dal Mulino, 224 pagine, 16 euro, tradotto da Giovanni Ibba. Hérier prende atto del fatto che la letteratura sul 20 settembre è sempre stata condizionata soprattutto dal punto di vista dello scontro tra papato e mondo laico, tra Italia anticlericali e Italia pontificia e clericale. E questa polemica perdurante ha fatto sempre trascurare la portata militare dell'avvenimento, almeno fino a 50 anni fa, al 1970, quando questo aspetto riprese timidamente a essere considerato. Lo storico francese vuole rimediare alla lacuna, aggiungendo così a una valutazione complessiva che permetta di spiegare appunto che cosa successe nei mesi precedenti a quell'evento. Naturalmente non si parla soltanto degli aspetti militari nel libro, colloca il 20 settembre come uno sbocco del grande dibattito che fin dal 1861 si era svolto a proposito delle sorti di Roma e soprattutto delle sorti dello Stato Pontificio, che era stato già pesantemente minacciato dalla Repubblica Romana nel 1848, alla quale proprio Garibaldi aveva dato un contributo importante. Nel 1870, ci spiega l'autore, si crearono finalmente le condizioni politiche per l'attacco, reso possibile dall'indebolimento della Francia, condizioni che consentirono appunto l'ultima sfida allo Stato Pontificio, che viene appunto ricostruito in questo libro. Cominciava così il periodo di Roma Capitale, i cui inizi vengono ricostruiti in due libri. Il primo è quello di Stefano Tomassini, che è un giornalista con una lunga permanenza in Rai, Italiani a Roma, cronaca della capitale tra il 1870 e il 1900, pubblicato dal Saggiatore, 456 pagine illustrate, 30 euro. L'autore sulla sua città ha già scritto diversi libri. In questo ci presenta episodi e personaggi celebri di quei primi 30 anni che cambiarono non soltanto l'aspetto fisico della città, ma anche il clima sociale e politico. In quei 30 anni emersero nuovi protagonisti della politica, esplosero scandali celebri, tra cui il più celebre fu quello della Banca Romana. E il libro è costruito proprio su molte citazioni della stampa dell'epoca, sulle cronache politiche, letterarie, storiche, giudiziarie, che ci presentano un cambiamento rapido e profondo che diede vita non soltanto a un'altra Roma, ma in parte a un'altra Italia. E l'altro libro è composto proprio in quegli anni, invece, raccogliendo scritti a partire dal 1878 del giornalista Giovanni Faldella, che era corrispondente a Roma della Gazzetta Piemontese. Il libro, col titolo Roma Borghese, era uscito nel 1882 e viene ora riproposto da Studio Garamond a cura di Giorgio Villani, 206 pagine. Fra l'altro anche Faldella viene citato nel libro di Tomassini. Il libro raccoglie appunto una serie di impressioni su quella Roma che si faceva capitale di un nuovo regno. Vediamo crescere la città, troviamo le cronache della Roma clericale descritte con un particolare gusto realista e un vocabolario ricercato che rendono Faldella meritevole di essere riscoperto al di là delle circostanze. Il libro è diviso in 5 capitoli che rendono vari aspetti, come dicevo prima, della vita della Nuova Roma, che nasce da quella breccia che lo scrittore ritratta in una storica osteria fuori Roma, quella dove aveva pernottato Cadorna proprio la vigilia del 20 settembre. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.